Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 46enne di San Quirino rimane ucciso nel tamponamento tra la sua auto e la fresa al traino di un trattore. L'incidente su un rettilineo buio a poca distanza da casa. Oltre 1000 stalli per camper e tende per accogliere 4000 alpini nell'Interland di Udine per la dunata di maggio. L'accoglienza diffusa in 15 comuni per non congestionare il centro. Aperta nel capoluogo regionale Trieste in fiore la mostra mercato florovivaistica con una quarantina di espositori da tutta Italia. A Bordano ha riaperto la Casa delle Farfalle dopo la pausa invernale, proprio nel giorno in cui si celebra il ventennale di attività. A Pordenone l'inaugurazione del Festival Dedica, protagonista la scrittrice francese Maëlide Kerangal. Sport, calcio, il Milan cade a Udine 3-1 per i bianconeri. Nel basket, brutta sconfitta per Trieste, che perde in casa lo scontro salvezza contro Reggio Emilia per 75-80. Buongiorno e buona domenica da Lara Zani e Francesca Vigori. Il tempo in apertura, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Le temperature a Trieste 7 gradi, a Udine 5, a Gorizia e Pordenone 4 gradi, a Tarvisio 4 gradi, a Forni di Sopra 2, a Piancavallo e a Tolmezzo 1 grado, a Sappada meno 1, sul Monte Lussari 3 gradi, sul Monte Zoncolan 0, a Grado 8, a Lignano 5. Vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo in genere variabile, con più nubi verso sera sulle Prealpi e in Carnia, dove la probabilità di deboli precipitazioni sarà comunque bassa. In giornata potrà soffiare vento moderato da sud-ovest in quota. Incidente mortale ieri sera sull'ex strada provinciale che collega San Foca a Vivaro. Un uomo di 46 anni, residente a San Quirino, è morto nel tamponamento fra l'auto di cui era al volante e un mezzo agricolo di rientro dei campi condotto da un ragazzo di 20 anni. Impatto tremendo fra la vettura e la fresa sul retro del grande trattore. Nulla da fare per l'automobilista nonostante l'intervento dei sanitari e dell'elisoccorso. L'incidente è accaduto poco prima delle 20 fra Vivaro e San Quirino. Sulla dinamica dell'incidente avvenuto poco oltre viadotto Sulcellina in un tratto rettilineo e buio indagano i carabinieri di Spilimbergo. 4.000 posti letto a disposizione per gli alpini nei 15 comuni dell'Interland udinese che hanno partecipato al bando regionale per l'accoglienza diffusa, che prevede l'allestimento di oltre 1.100 piazzole per caravan, tende e aree coperte in occasione della dunata di maggio. L'allestimento delle aree attrezzate per la sosta consentirà agli alpini che arriveranno in regione di trovare un'adeguata ospitalità, evitando in questo modo il congestionamento degli spazi all'interno della città, garantendo ricadute turistiche anche per le attività economiche dei comuni limitrofi al capoluogo friulano. Al bando hanno partecipato i comuni di Codroipo, Pozzuolo del Friuli, Fagagna, Cividale, Povoletto, Moruzzo, Basiliano, Muzzana del Turniano, Cassacco, Tavagnacco, Reana del Royale, Manzano, Varmo, Palazzolo dello Stella e Pavia di Udine, per un totale di contributi richiesti di 322.000 euro, che andranno ad abbattere i costi di realizzazione dei campi temporanei di sosta. Ammonta oltre 6.200.000 euro il valore dei lavori che gli enti di decentramento regionale potranno eseguire lungo le strade della viabilità regionale per opere di straordinaria manutenzione. La Giunta regionale ha infatti approvato il programma di interventi proposto dagli EDR per spese in conto capitale stanziate con la legge di stabilità del 2023. Degli oltre 6 milioni, 2 milioni riguardano l'EDR del Pordenone, 2.650.000 euro quello di Udine, 1 milione quello di Trieste, 600.000 euro l'EDR di Gorizia. Il programma riguarda alcune asfaltature nei tratti che richiedono interventi urgenti lungo la viabilità regionale di interesse locale. Si conclude oggi il tour in Friuli Venezia Giulia di Nicola Fratoianni di Verdi Sinistra. Alle 10 incontro e presentazione liste nella sala consiliare di San Pietro al Natisone. Alle 15 la partecipazione all'evento in piazza 20 settembre a Udine, la città che vogliamo, alla presenza del candidato sindaco Alberto Felice De Toni. Ultima giornata in presenza in regione anche per l'ex presidente della Camera Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, che sarà oggi a Udine. Alle 10 la passeggiata con i candidati alle elezioni regionali e comunali in centro a Udine, nella zona del Castello e della stazione. Alle 12 l'incontro con il candidato sindaco Ivano Marchiola alla stazione ferroviaria, con lui il senatore Stefano Patuanelli. Inaugurazione della prima sede di azione in Friuli Venezia Giulia a Trieste, in via Gatteri 14, angolo con via Crispi, alle 16.30. Saranno presenti le parlamentari Giulia Pastorella, vicepresidente nazionale di azione Isabella De Monte, e il candidato presidente di regione Alessandro Maran. Herbert Dorfman, eurodeputato del Partito Popolare Altoatesino SVP, in visita nel Goriziano per incontrare i candidati SSK. A San Floriano del Colli alle 9 incontrerà in municipio l'amministrazione comunale a Gorizia. Alle 9.45 sarà in piazza Transalpina, seguirà la visita a una fattoria didattica, alle 10.30 San Michele del Carso, conclusione della visita ad Oberto del Lago nell'agriturismo da Cirila alle 11.15. E restiamo a Trieste, dove ieri in Viale 20 Settembre si è aperta la mostra Mercato dei Fiori, che proseguirà fino al 26 marzo. Nonostante crisi e rincari, il settore sta resistendo. Scopriamo perché in questo servizio. Quali fiori le piacciono di più? Tutti mi piacciono, veramente. Dal segno di primavera, ecco. E per fortuna il Viale è un po' in allegria così. Ha un giardino, una terrazza da abbellire? Sì, ho un giardino che fa lavorare tanto, ma automaticamente ogni primavera torna la voglia di mettersi a lavorare e allora siamo qui in cerca. Meglio il fiore in vaso o il fiore reciso? In vaso, decisamente in vaso. Viale 20 Settembre torna a vestirsi di primavera con Viale in Fiore, la mostra mercato florovivaistica che quest'anno raccoglie una quarantina di espositori da tutta Italia. Sono arrivati clienti, sono arrivate delle persone anche solamente per chiedere informazioni, comunque c'è molto interesse. Sì. Siete soddisfatti? Abbastanza. Alessandro Muzzina, presidente nazionale di Assofiori Italia. Per fortuna gli aumenti sono abbastanza contenuti guardando altri settori, altre merceologie. Sulle piante un aumento medio del 10%, mentre sul fiore reciso è un aumento del 20%. Trieste, Lorenzo Gherlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Casa delle Farfalle di Bordano compie 20 anni e proprio nell'anniversario la storica struttura ha riaperto per la nuova stagione che proseguirà fino a ottobre. Era la primavera del 2003 quando apriva questa casa piuttosto nuova. Da allora la Casa delle Farfalle è cresciuta fino a rendere Bordano il luogo per eccellenza dove ammirare questi piccoli, splendidi e colorati animali. Alla Casa delle Farfalle c'è oggi uno staff qualificato e si fa ricerca collaborando con l'università, si pubblicano volumi divulgativi e specialistici, si fa educazione alla natura e alla sostenibilità, insieme a scuole di ogni ordine e grado, non solo del Friuli Venezia Giulia e non solo italiane. Sempre di più poi, in anni recenti, è diventato il fulcro del gran numero di attività volte a valorizzare il turismo sostenibile in tutta l'area. Stefano Dalsecco, presidente cooperativa Farfalla nella testa. Dopo il Covid, 2 anni un po' che ha avuto problemi per tutti, l'anno scorso siamo tornati davvero in gran spolvero e anche quest'anno la stagione si annuncia molto buona. Per esempio le scuole di cui adesso abbiamo le prenotazioni, di qui a metà giugno non c'è un giorno libero dalle scuole, tant'è che diciamo che dobbiamo dire di no quelli che chiamano adesso. Bordano, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Confartigianato Imprese Udine festeggia San Giuseppe Artigiano dopo 3 anni di interruzione causata dal Covid, premiando 48 artigiani soci di 31 imprese. L'appuntamento è per le 9.30 al Teatro Santa Margherita di Tarcento, con la presenza, fra gli altri, del presidente nazionale dell'associazione di categoria Marco Granelli. A Pordenone è stato inaugurato ieri il Festival Dedica, che ha per protagonista della 29esima edizione la scrittrice francese Maëlide Kerangal. Il primo dei 12 incontri previsti con l'autrice del pluripremiato romanzo Riparare i viventi, in cui il cuore di un trapianto diventa il punto di contatto tra i destini di donatore e ricevente, si è svolto al Teatro Verdi. Nella giornata inaugurale del Festival anche la consegna del sigillo della città, città che oggi potrà riflettere attraverso l'obiettivo la fotografa Mara Fella, la cui mostra sarà inaugurata alle 10.30 alla Biblioteca Civica, sulle molteplici anime di Lampedusa, oggetto del romanzo la cui lettura scenica è in programma domani. Martedì la proiezione del film Riparare i viventi a Cinema Zero alle 20.45. Venerdì l'incontro con le scuole, il film tratto da Corniche Kennedy. Gran finale sabato con il cantautore francese Cascadeur per la prima volta in concerto in Italia. E siamo allo sport con il calcio. L'Udinese esulta alla Dacia Arena battendo 3-1 il Milan, che colleziona la 7ª sconfitta in campionato. Il servizio. Poche le vittorie al Friuli dell'Udinese, ma di gran prestigio. Sei mesi fa quella sull'Inter, ora il 3-1 sul Milan, campione d'Italia. Domina nei primi 20 minuti la squadra di Sottile e va in gol al decimo con Pereira da dentro l'area di rigore, destro ispirato dalla percussione di Samardžić. Poi il Milan, che fa fatica, ma al 45esimo usufruisce di un rigore per fallo di mano di Bigliol. Penalty parato da Silvestri a sua maestà Ibrahimovic, ma fatto ripetere per l'entrata in area di Beto e successivo gol dell'attaccante svedese, che diventa così il più vecchio marcatore della storia della Serie A. Espulsione di Sottil e rabbia friulana trasformata in energia prima dell'intervallo grazie alla rete di Beto servito da Success. Nella ripresa non c'è reazione da parte di un Milan con poche idee e arriva invece il gol di Eizibue, libero di mettere dentro da due passi sul tiro cross di Udoji. La vittoria della squadra di Sottil è la seconda di fila in campionato, sembra di nuovo l'Udinese di inizio stagione. Sentiamo il tecnico della formazione friulana. Adesso conta la classifica, noi siamo lì e ci giocheremo tutte le partite fino alla fine per vincerle, perché questa squadra ha dimostrato, ma io lo sono sempre stato convinto, l'ho sempre detto anche quando arriviamo alle vittorie, che questa squadra si sarebbe ritrovata, avrebbe ritrovato soprattutto la spregiudicatezza e di scrollarsi di dosso un pochettino quest'ansia che di vittoria che non arrivava. 4 punti tra Bergamo e Empoli e 7 punti in 3 partite con Atalanta, Empoli e Milan. Credo che questa sia l'iniezione giusta. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket a 1, Trieste perde male, ora la strada salvezza torna in salita. Biancorossi superati in casa 75-80 dal fanalino di coda Reggio Emilia. Brutta sconfitta per la Pallacanestro Trieste, che perde in casa lo scontro salvezza contro l'ultima della classe, la 1 Tels Reggio Emilia. Al Pala Trieste finisce 75-80 in una partita dove i biancorossi mostrano limiti soprattutto in attacco. Trieste è costretta a inseguire per larga parte del match. Con il nuovo acquisto Hudson ancora lontano nell'inserimento dei meccanismi di coach Legovic, deve appoggiarsi alle giocate individuali, una sorta di OK Corral, dove a turno Bartley e Davis si fanno carico dell'attacco con iniziative difficili ma efficaci. Si va a strappi con parziali e controparziali. I biancorossi, dopo essere stati sotto tutto il primo tempo, vanno al riposo sul più uno. Nella ripresa la musica non cambia, nonostante i problemi di falli dei lunghi di Reggio Emilia con Lee infortunato. Gli ospiti sono fisici e sfruttano chili d'esperienza per tornare subito sopra con un 8-0 firmato Lee Sevicius. Trieste sprofonda meno 11, ma trova con Davis la forza di rialzarsi. Il playmaker è bravo e fortunato a trovare i 3 tiri liberi sul finale di terzo quarto per il meno 4. L'altalena prosegue anche negli ultimi 10 minuti. Legovic finalmente rinuncia a Terry e torna avanti con il solito Davis. La rimonta costa energie, soprattutto mentali, e si arriva punto a punto all'ultimo minuto. La squadra alabardata sbaglia qualche libero di troppo, mentre Sengling segna una tripla dall'altissimo coefficiente di difficoltà per il più 3 reggiano, 75-72, a 70 secondi dalla sirena. Trieste pasticcia in attacco e la 1 Tels porta meritatamente a casa la partita. Una sconfitta che fa male, che rimette in discussione una salvezza che in caso di vittoria sarebbe stata certa. Miglior marcatore Bartley con 27, Davis ne fa 23, per Reggio Emilia 16 i punti per Sengling. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sempre basket in A2, oggi alle 18 in match pallacanestro Forlì a Udine e Gesteco Cividale Cestistica San Severo. In A2 femminile Futurosa ha vinto ieri per 74-70 a Carugate, portando a casa due punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza. Decisivi due liberi di Costanza Miccoli realizzati a 6 secondi dalla conclusione. Ancora calcio, Serie C, questo pomeriggio il Pordenone incontra il Novara alle 14.30, mentre la Triestina riceve il Vicenza, la partita comincia alle 17.30. Pallanuoto maschile, nella 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile, la Pallanuoto Trieste supera alla Bruno Bianchi il Circolo Nautico Posillipo per 12-10, in un match fondamentale per continuare a inseguire i play-off. In classifica è ora sesta con 37 punti. Il match di ieri è stato il primo di una settimana impegnativa per i giuliani, che nei prossimi giorni affronteranno la trasferta di Savona in Eurocup e l'anticipo di Bogliasco. Pallanuoto femminile, nella penultima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile, la Pallanuoto Trieste ha perso in casa 6-11 contro il plebiscito Padova, una delle 3 squadre più forti della categoria. Il volley, nell'anticipo che apre l'11ª di ritorno alla Serie A2, la Tinet Prata di Pordenone ha avuto la meglio sulla HRK Motta di Livenza per 3-1. In A2 femminile niente da fare per la CDA Talmassons, sconfitta a Trento sul campo dell'Itas Trentino per 3-1 dopo una partita molto combattuta. Ora qualche appuntamento per famiglie in regione. A Passariano di Codroipo, seconda giornata della manifestazione nel giardino del Doge Manin. Dalle 9 al tramonto, i promotori proporranno una riflessione sulla biodiversità con presentazioni di libri, stand di florovivaisti, una mostra di fotografie, visite guidate al parco e una caccia al tesoro per i più piccoli. A Tarvisio, in Valcanale, la Crazy Bob, la competizione goliardica tra bob e slitte autocostruite. A ospitare il percorso di gara sono i campi Duca d'Aosta. 25 team iscritti provenienti anche da Veneto e Slovenia, per oltre un centinaio di partecipanti. Il via alle 10. Torna alla Tisana la festa degli Aquiloni, una giornata all'aria aperta per bambini e genitori nel Parco Gaspari e sull'argine del Tagliamento. Il via alle 10 con i laboratori di costruzione degli aquiloni con le carte delle uova di Pasqua raccolte dalla consulta dei genitori nella scorsa primavera. Il torrente Rosandra fra inverno e primavera, il titolo della visita in programma stamattina, ritrovo alle 9.30 al centro visite della riserva naturale della Val Rosandra a Trieste. La durata è di circa 3 ore, il percorso si snoda lungo piste forestali e sentieri CAI ed è adatto a tutti. Ultima giornata a Udine dell'International Street Food, dalle 12 a mezzanotte in piazza Primo Maggio, truck con cibo di strada e birra artigianale. Siamo alla rassegna stampa e dedicata alle elezioni regionali, l'apertura del Piccolo di Trieste con le proposte dei 4 candidati presidenti. In prima pagina anche il funerale dello psichiatra Franco Rotelli e l'allarme dei residenti di Piscianzi per il dissesto idrogeologico di Via dei Moreri. Il capocronaca apre con 2 pagine dedicate alle nuove statue nel capoluogo. Ieri lo scoprimento di quella dedicata a Monsignor Santin davanti a Sant'Antonio, ma dal 2004 sono state inaugurate 12 statue e il comune pensa a un tour dedicato. La cronaca di Gorizia del Piccolo apre con un'analisi sul comparto della logistica. Pesano i costi energetici e il conflitto in Ucraina. Il bilancio SDAG è in rosso di 100.000 euro, ma la società di gestione dell'autoporto è sana. L'apertura della cronaca di Monfalcone è dedicata alla delibera che consentirà ai giovani sopra i 15 anni di partecipare a tirocini in municipio. Il Messaggero Veneto di Udine apre sugli Alpini, 4.000 posti per tende, caravan e la donata. La fotonotizia è per la notte magica dell'Udinese, 3 gol e il Milan è travolto. Per la cronaca, il bancomat fatto esplodere a Sedegliano e il ciclista 36enne in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un'auto a Corno di Rosazzo. Nell'edizione di Pordenone l'apertura è invece dedicata agli investimenti e le liste d'attesa negli asili nido. Poi l'incidente di Vivaro, muore nello scontro col trattore e di piede il sigillo di Pordenone a De Kerangale, la stella di dedica. In prima pagina nell'edizione di Udine del Gazzettino, l'evasione fiscale stimata in 3 miliardi in Friuli Venezia Giulia. Al centro il calcio, Udinese stellare affossa il Milan di Ibrahimovic. Per la cronaca, l'assalto all'alba del bancomat di Sedegliano e il possibile ricorso dopo la stangata nel concorsone per infermieri e i 4.000 posti per la donata degli alpini. Nell'edizione di Pordenone di taglio l'incidente di Vivaro, auto tampona trattore agricolo, muore a 45 anni. Al centro la cerimonia in città, la polizia municipale giura fedeltà ai cittadini in piazza e poi nuovi corsi all'università. Qualche appuntamento scientifico. 70 anni fa James Watson e Francis Crick scoprirono la struttura del DNA, ma cos'è? All'immaginario scientifico di Pordenone, oggi alle 15.30, se ne parla con Federico Pozzo, ricercatore biomedico al CRO di Aviano. L'immaginario scientifico di Trieste propone invece Linkages, 2 interventi di tinkering, una strategia didattica che prevede che i partecipanti sperimentino mettendo insieme i materiali a disposizione in modo corretto ma creativo. Gli interventi alle 11.30 e alle 15 sono indicati per adulti e bambini a partire dagli 8 anni. Al Teatro Miela di Trieste, per Miela Bimbi, un mare di plastica di Xenia De Luigi, spettacolo che nasce dalla deriva di uno stormo di paperette di plastica cadute da una nave nel 1992. L'appuntamento è alle 11. Ad Aviano, 12ª edizione del Cross della Pedemontana, tradizionale appuntamento di ogni fine inverno organizzato dall'Atletica Aviano e aperto a tutte le categorie, dagli esordienti al settore assoluto. Circa 550 gli iscritti in rappresentanza di una 30ina di società. Ritrovo alle 8.15 e inizio gare alle 9.05 con le categorie del settore assoluto. Dalle 10.50 spazio ai giovani, alle 12.30 la cerimonia di premiazione. Ed è tutto da Lara Zani e Francesca Vigori che hanno redatto e condotto questo giornale radio, Paolo Cassano alla parte tecnica, Samantha Goni in redazione. Grazie per l'attenzione. Nel ricordarvi che l'informazione radiofonica regionale torna con il consueto orario domenicale alle 12.15, vi auguriamo ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.